di Spagna solo la bella regina dell'amore. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Di Spagna solo la bella regina dell'amore. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Thank you.